24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, della bersani, cioè. L'ha capita? Andiamo, farò un master in bersanese. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 6:33 minuti. Questa è 24 mattino e siamo in diretta fino alle 9. Con Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Ieri mi hanno scritto, lo so anch'io, che il CAI non è l'associazione degli alpini. Ma mi volete prendere in castagna sugli alpini? Cioè, l'associazione nazionale alpini, col nostro alpino Peter Bescapè. Però facciamo un po' ridere, dai, il CAI, il club alpino italiano che va da Bersani. Massimo rispetto per il CAI, eh? No, insomma, insieme al Touring Club italiano, massimo rispetto per il Touring Club italiano, insieme alla Federazione Pro Natura, massimo rispetto. Eccolo lì. Vabbè. Chissà se si sono messi lì con la birretta. Più il vino rosso che o la grappa o il bombardino. Allora apriamo il nostro Parlamento, speriamo che vada tutto bene oggi con le sigle, perché chi lo sa. Forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo Nicole Minetti che offre il caffè. Voglio salutare come ogni mercoledì Paola Saluzzi. Buongiorno. Alessandro, buongiorno, bentrovati. Siete rimasti una delle poche certezze in questo paese. Oh mamma mia, ragazzi, vedi perché affondiamo. questo paese affonda, capisci? Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, eccoci. Viva il Parlamento. Viva, è tornato in Italia. Sei tornato in Italia? Sì, in Italia, perfetto. Paola Saluzzi, grandissima fan di Franco Battiato. Intanto buongiorno direttore, ma chi è il maestro? Il maestro, sentilo qua il maestro, sentilo. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Questa è Innere Saughe, una delle straordinarie canzoni di Franco Battiato. Cosa c'hai contro Franco Battiato? C'ho il principio della sana buona educazione. Non so se lui abbia una sorella, ma dovrebbe, sicuramente ha una mamma. Dovrebbe darsi una calmata, una vera calmata, per due ordini di motivi: non per non dire la cosa che ha detto, che può pensare, che è libero di pensare, ma ha un ruolo e sta parlando al Parlamento Europeo del mio paese. Quindi si desse una calmata. Sentila la Saluzzi, finalmente si è scaldata. Allora sentiamolo Battiato. L'audio non è eccezionale, ma ieri era al Parlamento Europeo e ha detto, in pratica, ci sono delle troie in Parlamento, questo ha detto. Sentiamolo, perché poi Battiato ha fatto un'intervista a Repubblica oggi, dice: mi attaccano, ma sono tutti matti. Quando ero piccolo ho vissuto, fortunatamente per me, mia zia faceva la sarta, aveva 15 ragazzine dai 15 ai 20 anni che avrebbero fatto impazzire Roman Polanski, va bene? Che lo considerano un pedofilo, ma poi non credo che sia questo. Ebbene, la fisionomica l'ho imparata da loro, non avevano neanche la quinta elementare, però quando passava un uomo era finito, capito? Cioè, vedevano tutti i difetti immediatamente, no? Uno si rallegra quando un essere non è così servo dei padroni, e farebbero qualunque cosa queste troie qui che si trovano in giro nel Parlamento, ma è inaccettabile. Capito, Luca Dini, è inaccettabile questo, Luca? È inaccettabile il vocabolario, onestamente. Comunque, è una sede diversa. Oggi Battiato viene intervistato da Emanuele Lauria su Repubblica. Non ci posso credere. Inizia così: non ci posso credere, ma sono tutti matti. Mi attaccano. Troie, sì, ho detto troie, potevo dire prostitute. Magari il termine non piace, ma come chiama lei quelle che rendono i servizi per soldi? Quindi Paola insiste, no? E poi dice: ma insomma, io mi riferivo al Parlamento passato. Ma peggio ancora! Ma come ti permetti di fare pagelle, ma chi sei? E allora l'hai chiesto vieni? A chi si... Sono dove vieni? Come diceva Petrolini, scendo discendo dalle scale di casa a mia. A chi si riferiva, gli chiede Repubblica, non riesco neppure a nominarli certi personaggi, ma la zona è limitata, ma mi sembra che siano finite sulle pagine dei giornali soggetti che prendevano soldi per fare leggi pazzesche, per bloccare il paese, per fare o non fare cadere i governi. E insomma, se la prende la Fornero contro di me, ma è incredibile. Grasso... Ma scrive queste canzoni che sono 30 anni che scrive la stessa canzone. No, non attaccarmi anche Battiato sulla musica, perché mi arrabbia veramente. Ma dai tu, ma per cortesia. A un certo punto gli dicono anche Grasso contro di me. Ah, forse ha ragione Travaglio a questo punto. Dice così. E infine la domanda: ma lei si dimetterà? Bah, guardi, sarebbe un'occasione fantastica per farlo, ma non ci penso proprio. Certo, perché la sedia piace pure a te, va? Qua, direttore, c'è una Paola Saluzzi che, in quanto donna, secondo me, si sente tirata molto più in ballo. Però ha ragione, perché non, al solito c'è una discriminazione di genere spaventosa. Cioè, non è un caso se ha usato quella parola lì. Non ha parlato soltanto... Bravo dire. Cioè, voglio dire, se vogliamo dire che c'erano delle persone al soldo di qualcuno, si può usare un altro termine. Invece alla fine, insomma... Se lo fa un uomo è una cosa, se lo fa una donna è un'altra cosa. Che per la verità, nell'audio che abbiamo sentito, secondo me, un altro vero scandalo è che ha detto che Roman Polanski non era un pedofilo in realtà. Cioè, gli piacevano le quindicenni, dicevano che era pedofilo, ma secondo me... Il maschilismo, al solito maschilismo. Secondo me poi non è così. Vabbè, ma che t'ha combinato Battiato? Ieri ha fatto un'intervista in cui ha detto che in Lombardia ha vinto Maroni, in realtà ha vinto Ambrosoli a Milano, ma in provincia sono ignoranti. Sono due giorni che... ha deciso di buttare fuori tutto. Ha mangiato peperoni ripieni, guarda, io non oso pensare altro, veramente. Veramente ha mangiato qualcosa che gli è andata per traverso. Ma chi si crede di essere? Ma chi sono questi soloni che decidono? Sono completamente apolitica in questo momento, mannaggia. Ve lo garantisco. Ma chi vota Maroni è cretino e chi vota Ambrosoli è intelligente. Ma chi sei? Ma fai il mestiere tuo. Uni cui que sum, c'è scritto sull'Osservatore Romano. Oggi la Saluzzi si è svegliata. Io però voglio spezzare, per carità, il termine sbagliatissimo, maleducato, volgare. Su questo non sono molto d'accordo sul fatto che sia un attacco di genere. Cioè, perché Luca Dini dice... Lui, voglio dire... Beh, no, io mi riferivo anche alla questione di Polanski. Cioè, siamo sempre lì. Cioè, non si può dire quella cosa lì. Cioè, non è possibile dire che uno non è pedofilo, perché in realtà una 14enne maliziosa, non esiste. Sì, quella secondo me delle due è ancora più grave, quella su Roman Polanski. È un uomo, poi... diciamo, di una generazione passata che si esprime con termini che non sono più accettabili. Però, in fondo, Battiato in questa intervista oggi a Repubblica dice, ma insomma, per dire, Vittorio Feltri di recente ha detto vedo ancora 10 prostitute, così ha usato il termine, candidate nel Popolo della Libertà. Ha detto lui, quindi... Beh, un altro femminista. Un altro femminista, sì. oppure si è parlato, per carità, adesso non vogliamo rivangare cose del passato, ma si è parlato per mesi, no? O me lo sono inventato io, Luca, di persone che sarebbero state messe in posti di potere secondo meriti diversi rispetto a quelli della politica. Poi accuse mai provate, però insomma Battiato alla maniera sua l'ha buttata giù così e ha esagerato. Ho capito. Sì. Ma fate i nomi e i cognomi? E infatti lui dice: abbiate la faccia, abbi la faccia di fare i nomi e i cognomi. Lui, così la persona lui dice: non riesco nemmeno a nominarli certi personaggi. Sì, gli si è arrotolata la lingua, ha fatto un nodo. Il maestro, però non toccare. Sta troppo seduto sui tappeti. Guarda, ti giuro, ieri avevo voglia di far volare i suoi dischi come dei frisbee dalla finestra. No, io ieri pensa che invece per reazione, perché secondo me c'è tutto anche una promozione del suo disco, li ascoltavo ieri, mi mettevo su così e ascoltavo un po' di varie canzoni di Battiato. Dai, sulle canzoni. Perché tu sei una persona in gamba, io no. Ma non si può criticare, distruggere la musica di Franco Battiato per un'uscita. Un'uscita disgraziata. Però la tentazione c'è stata. Va bene. Allora, come vedete, insomma, questa vicenda di Battiato ha superato un po'. D'altronde, che dobbiamo dire della politica? C'è Bersani che sembra in salita, sapete, è il direttore con quei ciclisti che dice: gliela faccio, ma non si sa. Oggi parlano sui giornali di possibile accordo col PDL. Come ne uscirà Bersani da questa vicenda? non so, io spero non così, perché l'accordo mi sembra un suicidio, però. Un suicidio, ma sì, ma io non lo so, non lo so. Certo, tu Paola hai una soluzione da suggerire a Bersani? Guarda, io vado, oscillo tra San Gennaro e la Madonna di Lourdes, perché qui veramente siamo ai miracoli, e vogliamo dirne un'altra, non voglio anticipare nulla, sì. Vogliamo dire che i ministri si dimettono e dicono ho aspettato questo momento per dirvelo, si dimettono nel posto dove non si devono dimettere e mettono nei guai il governo in sede, è un'altra bella figura mondiale, ma c'è scritto, ma a proposito, ci sono le istruzioni per l'uso, a proposito, quando si fanno ministro? No, ma tra poco lo facciamo sentire. A proposito, ma a Sky vi hanno ricevuto alle consultazioni, Bersani? Come si credendo di essere ricevuto Sky. Con tutto Sky pomeriggio Sky, no sì, tutta la redazione, no, Vanity Fair, avete avanzato questa proposta per essere ricevuti? Vanity Fair, magari. No, ancora. VF, potevate scambiare i Vigili del Fuoco, magari, magari vi riceveva Bersani, perché riceve un po' tutti. Sentite ieri Crozza su questa vicenda delle consultazioni Fiume. Giova, ma tu l'hai già incontrato Bersani? No, non ancora? Beh, strano, hai incontrato tutti. La Gabanelli, Saviano, Don Ciotti, la CGIL, la CISL, la UIL, l'UGL, le imprese, gli ambientalisti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Coldiretti, Confindustria, COP, ABI, ANIA, ANCI, ACI, ANAS, AISCAT, Società Autostrade. Gli mancano ancora l'AVIS di Piacenza, IMODA e CIP e CIOP. E poi ha incontrato tutti. IMODA. Solo che IMODA sono in tour. CIP vuole le elezioni anticipate e CIOP ha già detto che voterà provvedimento per provvedimento. vabbè, così più o meno così. E tra l'altro c'è chi protesta, la Fondazione Belisario fa una nota dicendo e a noi non ci ha ricevuto. È giustamente la colpa, brava. E giustamente dice, ma che tutti, proprio tutti, brava. E adesso noi, eccolo lì, bravo. Oggi Paola Saluzzi si è svegliata. Ha detto oggi prendo il primo uomo che capita, gli tiro una pugno in faccia, che siete una delle poche siete gli uomini migliori che io possa incontrare. Ma ha distrutto anche Franco Battiato. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi parliamo di questa burletta e farsa dei Marò, e oggi la facciamo risentire il nostro, perché Paola Saluzzi ieri forse l'ha sentito, ma Luca Dini sul ministro degli esteri, preparati bene il nome, come si chiama il ministro degli esteri, tutta la dicitura completa. 24 mattino. Milan, vorrei dire alla Lombardi che secondo me ha sbagliato partito. La prossima volta la vedrò sicuramente in Parlamento con il PDL e in gruppo con la Santanchè, Lorenzin, Biancofiore, Gelmini e la Lombardi, che sono tutte quante simpatiche come una colica renale. Vorrei dedicare un epigramma ai miei amici italiani. Caligola riemerge dal passato. Questa volta si tratta di Ronzini, adesso si siedono in Senato il celeste Formigoni e la terrestre Polverini. Sono indignato, dopo WWF, Don Ciotti, Saviano, chi ci dobbiamo aspettare? Qui con qua i tre porcellini, ma ci faccio il piacere. Proprio perché il governo dei tecnici ha fatto una figura di merda, non vorremmo ancora Rodotà, Zagrebelsky e compagnia cantante. Io una cortesia vorrei chiedere. Questi due Marò hanno ammazzato delle persone. Per favore, non facciamoli diventare eroi. Per favore, questi devono pagare per quello che hanno fatto. E non sia mai che un domani ce li troviamo pure in Parlamento. Per favore. Hey Milan, leggo su affariitaliani.it che la Camera, il carrozzone dei deputati, ci costa 3 milioni di euro al giorno. 3 milioni al giorno. E non so niente dei senatori. Ha ragione Grillo. Primo, perché non ci dicono queste cose? E poi tutti a casa, anzi meglio ancora, in galera devono andare. Ti volevo dire, a voi hashtag giornalisti, conduttori, politologhi a seguire, perché non fate un governo voi, dato che siete tanto bravi, Facile ridere quando gli altri lavorano, arrivederci. Facciamo un bel governo noi con Luca Dini, Paola Saluzzi, Luca Dini lo mettiamo ministro dell'interno. Oh ragazzi, vi devo raccontare questa cosa, stanotte ho sognato che andavo a pranzo col ministro della giustizia, è vera questa, e per questo saltavo un pranzo già fissato col ministro dell'interno, cioè io ho bisogno di ne ho bisogno di uno buono, se avete da consigliarmi uno psicanalista interessante. No, ma giuro così, e tornavo da pranzo e dico no, il ministro dell'interno doveva andare a pranzo con lui, questo è terribile. Comunque, messaggi, ha ragione Battiato, la Saluzzi la smetta con questi falsi moralismi, siete ipocriti, ma no, questo io ti leggo quello che dico, sì, certo. Ma la Saluzzi dove vive questi moralismi, oggi la Saluzzi non si può sentire, vabbè, però c'è anche una, adoro il mercoledì con Luca Dini e Paola Saluzzi e Daniele, vabbè, vabbè, allora il ministro Luca Dini, tu sai come si chiama il ministro degli esteri, ex ministro? Giulio di Sant'Agata Terzi. Sì, non è proprio la dicitura esatta e completa. Comunque sentiamo le dimissioni. Proprio per questa mia posizione non posso più far parte di questo governo e annuncio le mie dimissioni. Per le seguenti motivazioni. Vabbè, le dimissioni. Non è proprio Giulio Terzi di Sant'Agata, Noi l'abbiamo anche rispolverato un audio. In realtà è Giulio Terzi di Sant'Agata, Marchese di Palazzolo, Conte di Restenò, Barone, Cavaliere del Sacro Romano Impero, Signore di Sant'Agata. Tutti insieme. Sì. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Cornari. Madonna. Vabbè, dovevamo rimetterlo, Paola, dovevamo rimetterlo. L'oro di Napoli, sì. Vittorio De Sica, Edoardo De Filippo. Luca Dini, veniva proprio così, ce l'ha mandata un ascoltatore, ce l'ha segnalata proprio di Sant'Agata, col massimo rispetto sempre. Allora, Repubblica scrive che sembravano Schettino e De Falco, no? Schettino, Terzi che abbandona la nave, e Di Paola, che è un ammiraglio, che scrive Francesco Merlo voleva passarlo per le armi lì alla Camera. Ha fatto bene o no Giulio Terzi a dimettersi, Luca? Beh, non nelle modalità, assolutamente, perché non esiste questa cosa. E poi comunque devo dire che sono d'accordo con quell'ascoltatore, cioè d'accordo parzialmente, voglio dire. Trovo un po' fastidiosa adesso la retorica della solidarietà verso, cioè, insomma, non ci si può esprimere nel merito su questa vicenda, non è che adesso queste due persone, cioè, la diplomazia ha le sue ragioni, però non posso veramente diventare eroi nazionali semplicemente perché forse sono sono oggetti di un'indagine non propriamente corretta. No, sì, noi siamo un po' così, siamo italiani. Guarda, quando dice quello lì non è che ce li ritroveremo in Parlamento, mi sa che ci sbaglia. Ci sbaglia perché ce li ritroveremo in Parlamento, sì, mi sa. Paola Saluzzi, te li vedi? La Torre, Girone, onorevoli. Forse voglio sperare che ci siano parlamenti diversi in futuro, che non assorbano chiunque all'interno dei seggi. D'altronde qui chi massacra la madre e ammazza i genitori scrive libri e voglio dire, e li leggiamo pure, e c'è qualcuno che li compra. È un paese bizzarro, tutto il mondo è paese, perché se Amanda Knox ha 4 milioni di dollari per scrivere un libro per spiegare che cosa sia successo a Perugia il 31 Amanda ottobre Knox. Notte siamo proprio al colmo. Dice. Del colmo ansiosissima. Poi, ansiosissima Amanda Knox. Ansiosissima, ti dico come gli risponderei stamattina. Saluzzi, io non rispondo nessuno. No, è tanto per dire, mi metto nei panni di Mario Monti, Presidente del Consiglio, forse le dimissioni corrette, perché un uomo non vuole più far parte del governo, vanno presentate un minuto dopo che i Marò hanno messo piedi sulla scaletta dell'aereo, no? Sì, sì. Ma sì, lì pare che ci sia una cosa politica. Adesso tutti i giornali si interrogano su questo. C'è per caso Berlusconi dietro le dimissioni di Giulio Terzi? Perché pare che sia Berlusconi dappertutto. Ce l'hai anche con Berlusconi? vuoi tirarti via qualche sasso anche. No, ma veramente, cioè, pare che ci sia molto vicino ad Alfano, alla Russa, eccetera, e pare che possa essere una mossa per mettere in difficoltà, in estrema difficoltà, il governo Monti, che vabbè, ormai è il disgoccioli. Che già non è in difficoltà. Che non è in difficoltà, no? Oggi Libero titola così: è il governo peggiore della storia della Repubblica. Ale, questo è il titolo di Libero. Voglio concludere. Oh, oggi la prima di copertina di Vanity Fair. Questa la capisco anch'io. Questa la capisco anch'io. C'è Mario Balotelli. Fino a qui ci arrivo. Oh. Ci arrivo anche io. Oh, sì, però Mario Balotelli che dice: forse è mia figlia. Per la prima volta parla, no, della figlia con Raffaella Fico. Direttore. Anche questa non è molto. No, dice, spero. Non è molto elegante anche questo nei confronti. Non è molto elegante, no, però questo è Balotelli. È Balotelli. E devo dire che la vicenda non è chiaramente, ci sono dei si legge tra le righe che la storia non è così semplice come sembra. No. Non riguarda ovviamente i dubbi sulla figlia, che secondo me non esistono, ma riguarda i rapporti con la madre, ovviamente. Insomma, per la prima volta parla Mario Balotelli, e qui le foto, Paola, ci sono delle belle foto, Ma Vanity fa sempre belle foto. Sì, vabbè, ma che c'è? Da padre Georg in copertina, Balotelli è la garanzia. Meglio, è la garanzia. Meglio Balotelli di padre Georg, adesso. Stai passando per Roberto Bolle, insomma. Vabbè, quella ti è rimasta, quella di Bolle proprio ti è rimasta, C'è la, C'è la gigantografia di Bolle. Era ritoccata, dai, Photoshop. I muscoli. Ma buona Pasqua, diciamocelo tutti quanti insieme oggi che mercoledì. Buona Pasqua, tanta cioccolata e tanta dolcezza, sembra giusto. Ci troviamo. Comunque, nella mia scelta, come sempre alternativa, leggerò sicuramente l'articolo sul romanzo che è stato scritto per l'uccisione, vi ricordo che fu terribile, l'uccisione di questa suora a Chiavenna, in provincia di Sondrio. È stato scritto un libro da una ragazza, tra l'altro, che aveva 12 anni, se non sbaglio, all'epoca. E andava a scuola con una delle assassine. Davvero, anche quella è una bella storia sulla, diciamo, sul disagio e questo buco nero che a volte si crea nella provincia, in certi posti di montagna. Questo strana cosa che... No, anche perché questa ragazza dice: facevamo sedute spiritiche, poi mi sono spaventata, cioè, come dire, potevo finire anch'io in quel giro lì, insomma, invece no. Fu un delitto davvero terribile, che infatti, tra l'altro, una di queste, se non sbaglio, o tutte e due, sono libere adesso, ovviamente. Sì, e una c'è stata una polemica enorme, perché a una è stata permesso di fare, se non sbaglio, la madrina al battesimo della nipote, qualcosa del genere. Giustamente qualcuno ha detto: i divorziati non possono prendere la comunione. E invece gli assassini. E non possono fare i padrini di battesimo. Ecco. Esatto. Allora io mi devo fermare. Vi ringrazio, Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Trovate con Mario Balotelli. Grazie, buona Pasqua anche a Paola Saluzzi. Buona Pasqua e grazie a voi. E ora rispondo su Twitter. Da adesso diventa più dolce. Dalle 6:56 la sua giornata è un po' più dolce. Alla prossima, grazie. Parassiti, ladri, ingrati e cornuti e delinquenti. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:20, cari ascoltatori, siamo di nuovo qui per leggere i giornali con voi e per ricordarvi gli ospiti che avremo più tardi. Parleremo di politica, saranno con noi Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, Silvia Velo, onorevole del Partito Democratico, avremo con noi anche un deputato regionale o cittadino, come si chiamano loro, del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Matteo Mangiacavallo. Insomma, mancano 24 ore ormai e poi Bersani andrà a riferire al Quirinale l'esito delle sue consultazioni, e quindi il momento politico è decisamente importante, è un momento decisivo per capire se si riuscirà a formare un nuovo governo. Questo c'è anche sui giornali che andiamo a sfogliare, e trovate ovviamente tutto in edicola, affollatevi a comprarli, ovviamente. Mercoledì 27 marzo, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, Italia, la produttività in caduta, questa è l'apertura con i dati dell'OCSE davvero brutti. Dal 2000, tra il 2000 e il 2012 aumenta il cuneo fiscale il 47,6%, mentre cala negli altri paesi. Il confronto Italia-altri paesi sulla produttività è impietoso. La vicenda dei Marò è in primo piano per diversi quotidiani. Corriere della Sera, Terzi lascia, gelo di Napolitano. Repubblica, Terzi lascia, caos sui Marò. Il Messaggero, Marò, Terzi lascia, gelo del Colle. La Stampa, Terzi lascia, l'irritazione del Colle. Il Fatto Quotidiano, Marò dal dramma alla farsa. Terzi spara su Colle e Monti. Il Giornale, Monti naufraga sulla nave dei Marò. Libero, il peggior governo della storia, sono i veri impresentabili. Il Secolo XIX, Marò, l'ultima raffica di Terzi contro Monti. Il Manifesto, fuori i Terzi. E come vedete tutti i quotidiani più o meno aprono su questa, su questo smacco della diplomazia e anche sulla questione politica legata. L'Unità è l'unica che apre sulle consultazioni, Bersani un passo avanti, mentre l'apertura di Avvenire è sempre sul Papa, la Chiesa esca da se stessa. E questo è il titolo di prima pagina. Ma tiene banco ancora e terrà banco per un paio di giorni, poi ci dimenticheremo anche di questa vicenda, quello che ha detto Franco Battiato. Franco Battiato che ieri era a Bruxelles come assessore alla Regione Sicilia e ha parlato di troie in Parlamento, suscitando, ieri se avete l'opportunità di vedere le agenzie, noi giornalisti abbiamo l'opportunità sulle ANSA, ma ogni due minuti era un'agenzia di sdegno, sconcerto, reazioni. Franco Battiato oggi fa un'intervista a Repubblica, lo intervista Emanuele Lauria, l'intervista è imperdibile, la trovate a pagina 13 di Repubblica. Non ce l'ho con le donne ma coi politici corrotti, è matto chi mi attacca. È un Franco Battiato che sembra non fare neanche mezzo passo indietro rispetto alle dichiarazioni, che poi finisce l'intervista tra l'altro: ora basta, ho il concerto, ecco, mi lasci, ho le prove. Questa è la fine dell'intervista, ma l'inizio è: non ci posso credere. Alle 7 di sera Franco Battiato si fa leggere al telefono a Bruxelles i dispacci di agenzia, Grasso, La Fornero, tutti contro di me, ma non ci posso credere, ma sono tutti matti. Ecco, da questo senso di distacco totale rispetto a quello che succede in Italia, dove si è scatenata la polemica, un Franco Battiato che dice: troie, sì, l'ho detto, potevo dire prostitute, il termine magari non piace, ma come chiama lei quelle o quelli che rendono i propri servizi per soldi? Io non ho fatto riferimento solo alle donne, ma anche agli uomini. Ho parlato di una parte deviata del Parlamento che avrebbe fatto qualsiasi cosa per il potere. Vuole negare che è così? Insomma, un Battiato che rilancia. E poi alla domanda: beh, ma scusi, a chi si riferiva? Diciamolo. Non riesco neppure a nominarli. Certi personaggi, la zona è limitata, ma mi sembra che siano finiti sulle pagine dei giornali, al centro di inchieste giudiziarie, soggetti che prendevano soldi per fare leggi pazzesche, bloccare il paese, fare o non fare cadere i governi. È ovvio che il mio pensiero va alla scorsa legislatura. E infatti dice la Boldrini che ha reagito: non c'entra, poteva informarsi, farmi una telefonata, io non ce l'ho col nuovo Parlamento. Beh, ma il termine troia, scusi Battiato, Emanuele Lauria gli chiede, non è il massimo dare a una rappresentante delle istituzioni questo termine. Ha ragione, se avesse usato il termine prostituta sarebbe stato diverso, ma il punto è un altro. Si sono viste cose orribili in Parlamento, non può essere una veste istituzionale a fare da copertura. Bisogna indignarsi per i termini che si usano o per i comportamenti di politici deviati che fanno a pugni con un paese che muore di fame? E comunque ci manca pure che passo per sessista o misogino. Andate a riascoltare le interviste che ho rilasciato, entusiasta sulle donne che lavorano all'Assemblea siciliana. E ancora Lauria gli chiede: Grasso dice che esprimerà il suo disagio a Crocetta. Oddio, pure lui. Forse ha ragione Travaglio. E questa è la risposta di Battiato. La censura arriva anche dal ministro Fornero. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Guardi, meglio che non aggiunga altro. Forse tutti avrebbero fatto meglio a documentarsi su quello che ho detto a Bruxelles. C'erano pure parecchie donne che mi hanno fatto festa. Così dice Battiato. E il presidente Crocetta l'ha sentito? No. E se le chiedesse di lasciare l'incarico, ci impiegherei pochissimo. Guardi, per assurdo sarebbe un'occasione fantastica per dimettersi, ma non penso a niente. Se permette, ora ho le prove del concerto. E finisce così l'intervista a Battiato, che trovate su Repubblica. Affiancata c'è un'onorevole Michela Biancofiore indignata. Dice: chiamo le donne a fare tutte una bella class action riunite contro Franco Battiato. Sarebbe bello che lo facessero tutte. E alla domanda, ma Battiato si riferiva al PDL? Non si capisce, risponde l'onorevole Biancofiore. Poi dico: è assurdo dover difendere la posizione del presidente, basta ricamare sulla figura di Berlusconi. Beh, in passato ha fornito qualche spunto, chiede Repubblica. Ancora oggi osanniamo Bill Clinton, che ha subito una procedura di impeachment per quanto accaduto nello studio Vale. La si vuole smettere di accusare indirettamente una persona solo perché ha potuto avere una debolezza per le donne? Oggi è felicemente fidanzato e non ha scelto le parlamentari per l'avvenenza. Dica la verità, onorevole Biancofiore, lei ascolta la musica di Battiato? Ogni tanto. È un grande autore, ma non tra i miei preferiti. Sicuramente non l'avrei mai messo a fare l'assessore alla cultura. Sarebbe meglio che continuasse a fare spettacolo e musica. Vabbè, la vicenda Battiato è tutto un profluvio di critiche. C'è uno solo, una voce, che si discosta. Iena, Riccardo Barenghi, sulla stampa, al suo graffio, pagina 3, scandali. Scrive così Iena: negli ultimi 20 anni in che paese hanno vissuto quelli che oggi si scandalizzano per le parole di Battiato? Insomma, e quindi a rinfocolare le polemiche anche Iena, che insomma sottoscrive di fatto le parole di Franco Battiato. Allora, spesso ricevo questa critica, ma ci dice sempre, ci legge notizie pessime, pessimiste, cose brutte. Ma questo scrivono i giornali, non è che me le posso inventare. Però, siccome ho trovato una bella notizia, una bella storia raccontata sui giornali, eccola qua, ve la propongo. Arriva dagli Stati Uniti, pagina 17 del Corriere della Sera, la scrive Marilisa Palumbo. Il titolo è questo: L'anello perduto e la favola del barbone a Kansas. In Kansas. È la storia di un senza tetto, di un anello di platino con diamante, di un bicchiere di plastica di un mendicante, un gesto di disattenzione, uno di buon cuore. In pochi giorni una vita che esce dai sacchi di rifiuti in cui era finita si trasforma in un film da fare invidia a Frank Capra. Sono passati 2 mesi dal giorno in cui l'8 febbraio una giovane signora bionda di Kansas City, estraendo dal portafogli delle monete per un senza tetto, fa scivolare inavvertitamente nel raccoglitore delle offerte l'anello di fidanzamento. A fine giornata il 55enne barbone Billy Ray Harris lo trova, lo porta da un gioielliere, lo fa valutare. $4,000, dice il negoziante. Troppi, troppi per Billy. Ci ripensa. Quell'anello merita di essere restituito al legittimo proprietario. E così, quando la signora Sarah Darling un paio di giorni torna a cercarlo, incredula, lo ritrova. Col marito pensa ora di contattare la TV locale per condividere questa storia che per lei è del miracoloso. Infatti subito si diffonde sui media nazionali, internazionali, davanti alle decine di persone che si fanno vive offrendosi di aiutare Billy. La coppia decide di mettere su un sito web su cui indirizzare le donazioni. La raccolta si chiude tra 50 giorni ed è già arrivata a $188,000. Con 8.252 offerte, la maggior parte delle quali in piccoli contributi, 50, 20, 10 dollari. Ovviamente questo barbone che ha fatto questo straordinario gesto altruistico restituendo questo anello che questa donna aveva perso, invece di andare a riscuotere $4,000, ora ha un posto di lavoro. Lavora come roadie, cioè la persona che viaggia con una band e ne trasporta e sistema gli strumenti, ha un nuovo amico col quale riesce a bersi una birra, ha una nuova famiglia, ha riscoperto la sua famiglia d'origine. Insomma, una bella storia nata da un gesto di disattenzione di una donna che ha perso l'anello, questo senza tetto gliel'ha restituito, ed eccolo qui, l'anello perduto e la favola del barbone del Kansas. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, siamo qui alle 7:35 minuti a parlare prima delle consultazioni. Molti giornali aprono sulla notizia politica del giorno, cioè ieri il ministro degli esteri Terzi è andato in aula e, riferendo sul caso dei Marò, si è dimesso. Ed è stata una mossa a sorpresa, perché tutti i giornali raccontano che Monti non era stato informato ed è nero, arrabbiato nero, per usare le parole non fuori dal diplomatichese. Così come il Quirinale ha espresso sconcerto per le modalità con cui il ministro Terzi, dopo aver concordato, limato il suo intervento in maniera collegiale il Consiglio dei Ministri, poi è andato lì e ha cambiato un po', ha sparigliato le carte, ha annunciato in qualche modo dimissioni così improvvise, senza avvertire prima nessuno. Terzi lascia sorpresa, sconcerto del Quirinale, questo è il titolo di pagina 9 del Sole 24 Ore, dimissione alla Camera, contrario al rientro dei Marò in Italia, l'ira di Napolitano, irrituale, non sono stato informato. L'irritazione del capo dello Stato per la dimissione è proprio da questo, li considera irrituali perché non è stato informato di nulla. Ma certo ci sono anche tanti retroscena su questa vicenda. Maurizio Caprara racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, proprio il silenzio con Monti e poi il colpo di scena. Cioè, all'incontro a Palazzo Chigi c'erano il ministro della difesa Giampaolo Di Paola come Terzi promotore della scelta di non far partire i Marò. Pare che Monti non abbia apprezzato la bozza portata da Terzi del suo discorso alla Camera e che abbia voluto modifiche. In ogni caso, da più fonti risulta che i ministri sono usciti dalla riunione con dei testi nei quali nessuno annunciava dimissioni sul caso di Massimiliano La Torre e Salvatore Girone. E verso la fine del suo intervento alla Camera, invece, Terzi è uscito dalla rotta concordata a Palazzo Chigi ed ha virato sull'annuncio di dimissioni. Coloro che conoscevano il testo preparato sono sobbalzati sulle sedie guardando il ministro degli esteri nella diretta televisiva. Insomma, quindi il racconto quasi di un intervento concordato poi con Monti, nel quale non si faceva parola alle dimissioni, e invece poi il cambio di fronte. E ci sono anche giornali, molti giornali, Il Fatto, Repubblica, Il Secolo XIX fa proprio un articolo a pagina 3 dedicato a questo, che si chiedono: c'è mica Alfano e dunque Silvio Berlusconi dietro questa decisione di Giulio Terzi di cambiare rotta all'improvviso e annunciare le dimissioni? Beh, per Il Secolo XIX è così: il cavaliere regista dello strappo, falla pagare al professore, era una mossa studiata per indebolire Monti. E d'altronde si ricorda che Giulio Terzi ha buoni uffici nel partito del Popolo della Libertà, un legame con l'ex ministro Ignazio La Russa, un filo diretto con Alfano. Il capo di gabinetto di Terzi, Gian Lorenzo Cornado, è l'ex consigliere diplomatico del segretario del PDL Alfano. Dunque c'era stata questa linea. Berlusconi avrebbe visto anche Terzi di recente, lo avrebbe comunque sentito, con l'idea falla pagare a Mario Monti. E infatti ieri Berlusconi da due giorni tuona contro Mario Monti, la sua incapacità, dice Berlusconi, di gestire questa vicenda. Beh, Francesco Merlo fa uno straordinario spaccato di quella che è stata la giornata di ieri su Repubblica. Che tristezza rivedere De Falco e Schettino, li paragona ai due protagonisti del disastro della Concordia, Francesco Merlo, cioè Giulio Terzi sarebbe Schettino, colui che abbandona la nave, e Giampaolo Di Paola, ministro della difesa, sarebbe De Falco, colui che invece ordinava a Schettino di ritornare a bordo. E scrive infatti Francesco Merlo: sembravano De Falco e Schettino, e si è capito subito che l'ammiraglio Di Paola, se avesse potuto, avrebbe passato Terzi per le armi, seduta stante nell'aula stessa di Montecitorio. Questo avrebbe fatto. Poi continua a pagina 4 con gli occhialini sul naso, palesemente a disagio nel suo abito borghese politico indossato come una divisa, il tesissimo ammiraglio, cioè Di Paola, ha elegantemente dato del codardo a Terzi, che con la voce stentoria ed eccitata si era invece finto soldato, aveva vestito di eroismo la furbizia all'italiana: non posso far più parte di questo governo. E Di Paola non si abbandona la nave in difficoltà. Seduti vicino nel banco del governo, Di Paola e Terzi erano un De Falco e un Schettino, finalmente a confronto e allo scontro sui legni solenni di Montecitorio che ieri naufragava come la Concordia. Per capire questa coppia eterna del comando italiano bisognava guardare Di Paola mentre Terzi parlava e poi viceversa guardare Terzi mentre parlava Di Paola. Terzi che si agitava, Terzi che tormentava la cravatta, Terzi che non riusciva a trovare la compostezza del diplomatico mentre gli si arrostivano le orecchie, e Di Paola prendeva appunti mentre Terzi si atteggiava a nume adirato. Di Paola si toglieva gli occhiali, forse per prendere la mira su quel nobile che si fingeva caduto nella trappola dell'ignobiltà. Di Paola che, pur seduto, stava sull'attenti accanto a quel Polifemo accecato proditoriamente da Mario Monti e dai suoi colleghi di governo, Di Paola che ad ogni parola di Terzi accentuava la sua espressione da chi va là. E insomma, la disfida in questo articolo, l'ambasciatore e l'ammiraglio come Schettino e De Falco e la nostra diplomazia affonda. Davvero una figura da peracottare, io dico, da giorni. E ieri c'è stato questo clou alla Camera. Tra l'altro oggi 9 in punto Simone Spezia ne parlerà di questa vicenda. Parlerà di questa vicenda e vi racconto anche che a un certo punto in aula c'è stato un urlo. L'urlo ed era la moglie di Girone, Vania Girone, la moglie di Salvatore, il marò sbattuto in India, racconta Francesco Grignetti sulla Stampa, che riesce a strappare qualche parola, qualche dichiarazione alla moglie, che a un certo punto ha urlato in aula: riportateli subito a casa. Signora Girone, chiede Grignetti sulla Stampa, allora che ne pensa? Chiedo a tutti unione politica per garantire il ritorno a casa di Salvatore e Massimiliano. L'unità di intenti tra i politici non si è vista. Questi aspetti non so valutarli, nemmeno mi interessano troppo. Due figli a casa che aspettano il padre, qualcuno ci pensa? La Torre ne ha 4. E poi però critica in qualche modo le dimissioni di Terzi. Si aspettava le dimissioni io, anzi noi, perché ora parlo anche a nome dei La Torre, lo chiediamo ufficialmente. Terzi non si deve dimettere, deve collaborare con i ministri di difesa e giustizia e tutti gli organi che il 21 marzo hanno deciso che i nostri cari tornassero indietro. Non è il momento di dividersi o di sottrarsi, ma di combattere e vincere. Nessuno deve dimenticare che Massimiliano e Salvatore sono due soldati che hanno obbedito a un ordine del governo. Stanno onorando la patria, rispettando per due volte gli ordini molto difficili, hanno rispettato il loro giuramento. C'è da dire che questa è la moglie di Girone che viene intervistata dalla Stampa, l'intervista la trovate a pagina 2. C'è da dire che la prospettiva indiana è molto molto, ovviamente forse anche comprensibilmente, sui giornali italiani sottovalutata. Solo il Manifesto intervista a pagina 3 un giornalista indiano. Si tratta di un giornalista e scrittore, Praful Bidwai, di raccontare come tutto questo viene percepito dall'India. Ed ecco che ovviamente la versione è diversa. È inaccettabile che siano stati accolti come due eroi questi soldati. Gli italiani hanno sottovalutato la reazione dell'opinione pubblica, dice lo scrittore indiano intervistato da Giuseppe Acconcia, pagina 3 del Manifesto. I due fucilieri sono stati accolti col benvenuto in Italia, in uniforme. Questo non è accettabile. I giudici indiani cercavano di stabilire se avessero sparato e aperto fuoco selvaggiamente. Ha colpito poi in India che i due marò non si siano mai scusati. A quel punto è entrata in gioco l'ambiguità della legge che regola le acque internazionali, ma all'avvio del negoziato gli italiani hanno risposto con richieste precise. Si è arrivati a un accordo con le autorità indiane al quale gli italiani avrebbero dovuto obbedire e non lo hanno fatto. Certo, però dice: non ho assistito ad attacchi al consolato, non mi sembra ci siano impatti diretti del caso sulle relazioni dei due paesi e su un crescendo di sentimento anti-italiano. Però certo, una vicenda che vista dall'India è ben ben diversa. In tutto questo, per un giorno in qualche modo ha oscurato, ha messo in secondo piano, almeno sui giornali, il tentativo di Bersani di trovare una quadra per le consultazioni e quindi formare un governo. Sui giornali leggerete che, secondo molti, c'è un'idea di accordo. Francesco Verderami la mette così sul Corriere della Sera. In realtà l'accordo c'è, ma quello che manca è l'accordo. L'accordo sarebbe, la strada per l'accordo, e quando si parla di accordo vuol dire PD, PDL, passa attraverso una commissione per le riforme che avrebbe un termine di 6 mesi, con una pattuglia di costituenti incaricata di riscrivere la seconda parte della Costituzione da presentare poi al giudizio inemendabile del Parlamento. Questo sarebbe l'accordo, fare una convenzione, una sorta di questa commissione presieduta da uno del centrodestra, quindi il Popolo della Libertà, in accordo tra PD e PDL, e riformare parte della Costituzione. Insomma, una bicamerale. Ma non l'avevamo già fatta. E pare che sia stato un disastro. Allora, Bersani dice che ha ammesso l'esistenza di difficoltà, l'Unità titola in prima pagina, forse per dare anche un po' di sprint e cercare di dare un po' di incoraggiamento a Bersani, ci sono dei passi in avanti. Sta di fatto che ieri Bersani ha accolto PDL e Lega, oggi alle 10 vede Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, che hanno voluto e sarà tutto in streaming, in modo che si vedrà tutto chiaro, come se fosse tutto trasparente, no? Come se la politica dovesse essere tutto alla luce del sole, come se fosse orrore il fatto che i politici facciano i politici e quindi si accordino sulle cose, il senso della politica è questo. Comunque vedremo tutto in streaming, Bersani con Beppe Grillo, e poi le consultazioni sono finite di fatto. L'accordo ieri, racconta tutti i giornali, potrebbe passare con il PDL attraverso che cosa? Attraverso la possibilità di offrire la bicamerale. Rispunta proprio questa parola sulla stampa, giustamente. Bersani offre la bicamerale al PDL, perché adesso la chiameranno convenzione per le riforme, forse. Questa commissione che dovrebbe riformare parte della carta e che dovrebbe essere presieduta da uno del Popolo della Libertà, in nome insomma di questo accordo, in nome di un tentativo di trovare una soluzione insieme, e questo potrebbe essere il modo per trovare una sorta di accordo. Anche per Repubblica l'offerta di Bersani al PDL, insieme solo per le riforme ma niente governissimi. Intanto Berlusconi, secondo il giornale, insiste, vuole uno dei nostri al Quirinale, vuole uno dei suoi o comunque non uno di sinistra. Infatti Gaetano Quagliariello viene intervistato dall'Unità da Federica Fantozzi e dice: con il nome giusto al colle possibile un governo PD. Ecco che riapre la possibilità di questi spiragli di dialogo. Tutto passa anche per la scelta al Quirinale. Sta di fatto che il dato politicamente unico e certo è questo: domani Bersani va da Napolitano, e per il secondo giorno consecutivo il Corriere si interroga su questo. Se Bersani va da Napolitano e dice, non avendo numeri certi al Senato: caro Presidente, dammi l'incarico perché sono in grado di formare un governo che ha la fiducia, fidati, i numeri li ho, perché magari riesce a convincere qualcuno a uscire dall'aula, qualcuno a passare di qui, qualcuno che magari in nome della responsabilità lo vota. Napolitano che fa? Glielo dà questo incarico? Beh, il Corriere oggi dà una risposta: senza numeri o intese esplicite, il Colle darà l'incarico a un altro. Questo è il titolo dell'articolo di Marzio Breda. A pagina 8 e 9 del Corriere, l'ipotesi di inviare subito una personalità alle Camere per la fiducia. È ovvio che Giorgio Napolitano non creda nei prodigi, scrive Breda. Sarà dunque difficilissimo, per non dire impossibile, per il segretario del PD, dopo aver ammesso che per fare il suo governo serve un miracolo, ottenere che il preincarico ricevuto si trasformi in un incarico pieno, se non avrà verificato l'esistenza di un sostegno parlamentare certo. Ora, poiché fino a ieri sera Bersani non aveva registrato, tranne qualche confuso segnale di fumo, concrete chance di guadagnarsi un voto di fiducia per dare il via all'esecutivo, sembra irreale per lui la speranza di incassare dal Quirinale il via libera per una sfida al buio. Dunque il Corriere è molto chiaro, cioè pare, stante le cose così, che le possibilità di Bersani di ottenere l'incarico è quasi nulla. La domanda quindi è: potrà Bersani, che si affanna per mettere in cantiere un governo di minoranza, vantare come sufficiente un'intesa del genere davanti a Napolitano, cioè un'intesa un po' fumosa? In questo caso, secondo il Corriere, no. Dovrebbe rassegnarsi al fallimento e rinunciare, e al che Napolitano potrebbe convocare al Quirinale nel giro di poche ore una personalità che probabilmente ha già individuato. Si può immaginare un uomo politico con qualche esperienza istituzionale e di elevato standing in Europa, meglio se non digiuno di questioni economiche, e inviarlo alle Camere e farsi votare la fiducia. Quindi potrebbe essere questa la svolta anticipata dal Corriere della Sera, un Bersani quasi dato già per spacciato politicamente. Chi è dato per politicamente morto, invece, con un editoriale molto duro e un titolo altrettanto duro, è Le Monde. In Francia Le Monde ha titolato così: Mario Monti è politicamente morto per l'Europa. Il giornale mette questo titolo in in ampio risalto a pagina 4. Monti per l'Europa è politicamente morto, ma anche il Corriere ne scrive. E intanto continuano le polemiche su queste consultazioni slow, no? Fate con calma, io metto sul mio profilo Twitter Alino Milan, fate con calma, no? Le consultazioni slow, e quindi il Corriere della Sera fa sapere che insomma c'è un po' di sconcerto dagli alpinisti del CAI agli ecologisti del WWF, ecco l'agenda del designato, no? Le consultazioni allargate, questo è il caso, come scrive Giovanna Cavalli a pagina 5, ha incontrato un po' tutti Bersani, e c'è addirittura il paradosso di qualcuno che protesta e dice: ma come, a noi non ci ha incontrato? Lella Golfo della Fondazione Belisario precisa una nota dicendo: ma come, ha incontrato tutti e noi invece no, ci ha dimenticate. La rabbia delle rabbia femminista, così titola Libero, ci ha dimenticate. Ieri ha incontrato un po' tutti, anche sul Messaggero c'è questa storia, scoppia il caso delle consultazioni slow, a pagina 4 l'articolo di Ettore Colombo racconta ma com'è possibile, insomma, praticamente ha incontrato tutti e invece gli altri no. Ieri anche Crozza diceva: mancano i Modà, Chip e Chop, e poi più o meno le consultazioni sono complete. Vabbè, abbiamo ancora un minuto, vi racconto semplicemente come dato di cronaca che, ecco, no, non dico niente sulla nuova diatriba, adesso dopo Travaglio Grasso c'è Caselli che se la prende con Grasso, oggi c'è anche una fittissima pagina di piombo fuso sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio sulle bugie di Grasso, vi prego, leggetela per me e fatemi un stringatissimo riassunto. La notizia di cronaca più interessante è quella sicuramente che riguarda Amanda Knox. Ho 30 secondi, ma trovate tanti articoli su questa vicenda. Amanda, tra incubi, lacrime e paura, il processo d'appello va rifatto. E Amanda Knox che fa? Se ne sta a Seattle, se ne sta con 4 milioni e 300 mila euro incassati per scrivere il libro sulla vicenda, e tra l'altro adesso inizierà anche le interviste in esclusiva. Ora anche Raffaele Sollecito, scrive il Corriere, ha un piano: trasferirsi a Lugano, ma dice è solo una questione di lavoro, tranquilli, non è una fuga. È andata così questo processo. Mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qua, la politica nel tunnel, sì, ma domani Bersani andrà da Napolitano al Quirinale, sapremo. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. L'accordo che si profila, l'unico ottimismo oggi c'è sull'unità, che parla di un passo avanti. L'accordo tra PD e PDL, secondo le indiscrezioni dei giornali, passerebbe attraverso questa cosa qui, udite, la convenzione per le riforme. C'è una commissione che in 6 mesi dovrebbe riscrivere parte della Costituzione, da presentare poi al voto del Parlamento. E perché passerebbe da qui l'accordo? Perché la presidenza di questa commissione verrebbe data al Popolo della Libertà. Io quando l'ho sentito ho pensato: ma abbiamo già dato con la bicamerale, non mi sembra che sia andata benissimo. Ho pensato anche: beh, auguri se questo è il profilo dell'accordo. Comunque, la domanda è questa: ce la farà Bersani domani a presentarsi al Quirinale da Napolitano con numeri certi e alleanze esplicite? Cito queste cose perché il Corriere oggi fa l'articolo più interessante, a retroscena di Marzio Breda, a dire: se Napolitano non vedrà numeri certi e alleanze esplicite che possano dire c'è la possibile fiducia al Senato, Napolitano è orientato a dare l'incarico a un altro e a togliere dunque il preincarico a Bersani, non trasformarlo in incarico a Premier. Succederà questo? Chi lo sa? Siamo alle indiscrezioni giornalistiche, ne vogliamo parlare con l'onorevole Silvia Velo del Partito Democratico. Buongiorno, l'avevo fatta per un attimo trasmigrare di là. Buongiorno onorevole Velo. Buongiorno. Partito Democratico. Saldamente accurata. Saldamente ancorata. E saluto anche l'onorevole Giancarlo Galan del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, eccoci. Saldissimamente ancorato al Popolo della Libertà. Buongiorno a tutti. Questo sì. Allora, onorevole Velo, le chiedo questo: non è un po' la mossa della disperazione questa dell'accordo, la commissione? Cioè, lei è fiduciosa sulle possibilità di Bersani? Ma situazione è complessa, la strada è stretta, questi sono termini che tutti stanno usando in questi giorni. Il risultato elettorale, naturalmente abbinato a una sciagurata legge elettorale, rende la governabilità nel nostro paese assai complicata. E però nella proposta che sta emergendo sulla stampa c'è una coerenza rispetto a quanto detto da Bersani dopo il risultato elettorale, ma direi anche prima, cioè larga convergenza, largo coinvolgimento, ampia corresponsabilità sulla scelta delle riforme istituzionali, legge elettorale, assetto istituzionale, sì, eccetera, eccetera. Mentre una scelta di cambiamento anche ascoltando l'esito del voto sui temi, sulla linea del governo. Però vuol dire, cioè, governo... La strada è stretta, ma c'è una coerenza. Sì, ma anche un pochino magari sfuggente, cioè governo con Berlusconi, per carità, questo lei conferma? No, assolutamente. Governo col PDL, questo no. Mai. No, ma non perché, voglio dire, c'è una pregiudiziale ideologica verso... modelli tedeschi delle grandi coalizioni, eccetera, eccetera, ma perché in qualche modo, al di là delle responsabilità tecniche o politiche, il governo Monti ha lasciato un segno, una strada che abbiamo percorso e che per nessuno, credo nemmeno per i colleghi del PDL, abbia dato i risultati sperati. E il segnale del voto è la richiesta di cambiare. Lo capirebbero non solo i nostri elettori, ma gli italiani. Ma questo si tratta di capire come, non so, onorevole Galan, come, se non c'è la possibilità di fare un accordo di governo, la grosse coalizione, come viene definita in Germania, e allora che cos'è questa roba della convenzione per le riforme? Lei l'ha capita? Io non l'ho capita e credo che nessun italiano di buon senso l'abbia capita. Mi par di capire che il PD, con questa formula che ricorda le peggiori momenti della Prima Repubblica, con gli ossimori diventati di uso corrente, indichi che lui vuole farsi il governo, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, tutto quello che c'è da prendere se lo porta a casa, e noi dovremmo dargli i voti in cambio di qualche ipotetica riforma elettorale. Beh, mi sembra un po' ridicolo, non è la strada giusta, la strada che Bersani ha voluto seguire, cercando a tutti i costi una maggioranza raccogliticcia con qualche voto preso qua e là, sia sempre più in salita a questo punto. Sì. Lei non lo farebbe il bel presidente della convenzione per le riforme per 6 mesi? Ma neanche per idea, ma di quali riforme, che non si è fatta neppure la riforma elettorale. Ecco, voglio ricordarlo però, e ne approfitto, questa legge elettorale che ci viene addebitata, e la colpa ce la prendiamo di non averla cambiata, questo è una colpa di tutti, fu inventata nella regione Toscana, che notoriamente non è una regione di centrodestra. Dell'onorevole Velo, tra l'altro. Siete voi toscani, no, siete colpevoli. È una lettura parziale, perché quello che ci viene attribuito è i collegi con liste bloccate. Sì. Questo è vero e la Toscana la sta cambiando. Peraltro però aveva fatto anche una legge sulle primarie per formare le liste. Detto questo, la scelleratezza di questa legge non sono le liste bloccate, ma la differenza di risultato che si ha a il fatto che, ci sono due sistemi elettorali diversi, perfetto. È chiaro, ci sono due sistemi elettorali diversi, alla Camera si vota in un modo, la governabilità è più No, adesso Galan, che date la colpa adesso, che lei ha individuato nella Toscana la colpa di tutto questo. La Toscana si ribella. Ognuno deve prendersi le sue colpe. L'unica cosa drammatica è che non siamo riusciti a cambiarla quando questa è la... No, però io vorrei capire questo. Onorevole Galan, la posizione del Popolo alla Libertà qual è? Cioè, nel senso, si parla tanto di possibilità che alcuni facciano la stampella autorizzati da Berlusconi, che insomma si voglia far partire la macchina. Perché l'alternativa è, vi assumete la responsabilità, se no di dire no, piuttosto si va a votare? Ma la responsabilità noi non ce la deve assumere Bersani. Noi abbiamo detto, la posizione del Popolo della Libertà è di una chiarezza estrema. Noi fin dal primo giorno, dopo le elezioni, abbiamo detto, con questo risultato l'Italia è divisa un terzo e un terzo. nessuno ha vinto le elezioni, tranne qualche successo parziale che c'è stato, quello di Grillo da un lato e la rimonta di Berlusconi dall'altra, ma nessuno ha vinto le elezioni. C'è un terzo, quello di Grillo, che si chiama fuori dal governo del paese, e gli altri due terzi hanno un dovere solo, governare e reggere di fronte alla drammaticità della situazione. Dica la verità, voi l'avreste fatto, però come... dica la verità, lei l'avrebbe fatto se aveste vinto voi, seppure di poco, cioè di dire mettiamoci, perché voi lo dite da una posizione seppure lieve di debolezza dal punto di vista del voto. Ma quindi... guardi, lieve sì, però io voglio rispondere con grande sincerità, io sono un liberale e quindi la mia posizione è sempre stata, il mio sogno è quello che uno vinca le elezioni in un sistema maggioritario e l'altro faccia l'opposizione. Però questo vale in tempo di pace, in tutto il mondo vale in tempo di pace. Oggi siamo nel pieno di una guerra finanziaria ed economica internazionale e quindi devono valere in situazioni eccezionali anche nella politica. Quindi anche mettendo per un attimo da parte gli ideali e i sacri principi, io credo che il buon senso avrebbe dovuto imporre a chiunque, noi l'avremmo fatto, di tener conto della situazione e fare un governo, chiamiamolo come vogliamo, che faccia 3-4 cose importanti per il paese e importanti per l'Europa. Insomma, in una situazione di governo, di gestire un gabinetto di guerra finanziaria e economica. Onorevole Velo, la questione che le voglio porre è questa. Lei fa parte dei cosiddetti giovani turchi, no? Questa nuova generazione, si può dire, sì. Si può dire, io faccio una battuta su questo, è una vostra sintesi giornalistica, perché io potrei dire non sono né giovane, visto che ho 45 anni, è giovane. Che sono piuttosto bionda, quindi col prototipo dei turchi. Ah vabbè, c'ha poco a che fare con le turche. Al di là delle battute, c'è stata una discussione politica in questi mesi, questi ultimi due anni, a partire dalla lettura della crisi e dalla lettura che il governo, diciamo, l'Europa ha dato della crisi. E su questa lettura noi ci siamo interrogati, convinti del fatto che l'eccesso di rigore, la spirale rigore e recessione avrebbe potuto non solo danneggiare la crisi, l'economia reale, la vita delle famiglie e delle imprese, ma danneggiare lo stesso progetto europeo che sta vivendo una fase di crisi, è visto sempre più in maniera ostile dalle popolazioni. Sì, però la questione è questa. Su questa analisi credo che molti si stiano ritrovando. Sì, però il punto che ha chiesto, che mette Galan è questo, cioè di fronte a questa crisi, perché voi dite ostinatamente no all'ipotesi di mettersi insieme? Effettivamente sono tre punte, una delle quali il Movimento 5 Stelle dice no, noi assistiamo e aspetteremo la morte dei partiti tradizionali, e quindi rimanete in due, insomma, se uno non ce la fa da solo in qualche modo deve chiedere aiuto all'altro, oppure niente. Ma intanto a me pare che la proposta che Galan ha detto che nessun italiano di buon senso ha capito, in realtà è in questa direzione. Cioè la convenzione per le riforme. È un coinvolgimento ampio delle forze parlamentari, non è molto diverso dall'appello che ha fatto Galan. Tant'è vero che lo stesso Alfano, insieme a Maroni, ieri concludendo nella conferenza stampa ha chiesto 48 ore di tempo per valutare le proposte. Quindi, come dire, io leggo, provo a leggere, seguo le conferenze stampa come il collega Galan, naturalmente, provo a leggere anche uno spiraglio di ottimismo. Però mi scusi, ma qui al di là della convenzione delle riforme, cioè domani Bersani deve andare da Napolitano e deve dire se ha i numeri oppure no. Cioè, secondo lei? Stasera, io credo che stasera Bersani tirerà le fila e andrà da Napolitano a dire quello che è successo, e poi Napolitano farà la sua valutazione. Ma questo sì, ma i numeri come li trova? Cioè, nel senso, secondo lei, un po' di qui e un po' di lì? Cioè, cosa può dire Napolitano? 5 mi danno la stampella, 7 escono per abbassare il numero legale. Cioè, crede che Napolitano possa accettare questo tipo di discorso? Ma, intanto, se ci sono scelte che sostengono un'ipotesi di governo di Bersani o non lo ostacolano e sono esplicite, sono perfettamente in linea con il dettato costituzionale, con le nostre regole democratiche, e sono già successe, sono nati anche governi sulla pensione, quindi non credo potrebbe essere politica, che ne so, la Lega però esce dall'Aula. Non è possibile, quello che non è possibile è pensare che qualcuno dietro le quinte dice io vado in bagno al momento questo no. Non esiste, Galan, no. Voi vuole state... chiarezza, no, no, ma è chiaro. Sono d'accordo con Galan quando dice la situazione è così grave che si possono anche trovare modelli, come dire, inusuali, però nella chiarezza e nella trasparenza. Questo sì. Galan, prima della pubblicità, c'è l'ipotesi che, non so, il Popolo della Libertà esca dall'aula per abbassare il numero legale e far partire quindi il governo e poi chi vivrà vedrà? La vedo difficile, guardi, poi queste cose qui le abbiamo già viste in tanti anni, funzionano un mese, funzionano l'estate, ma non reggono. La situazione è di una tale drammaticità, perché noi siamo qui a fare bizantinismi, ma noi stiamo per essere commissariati dall'Europa, ogni giorno chiude una fabbrica, ogni giorno c'è un dramma nuovo che si verifica e noi facciamo i bizantinismi. No, occorre una cosa più chiara, occorre dire al paese guardate, ci mettiamo insieme per affrontare una situazione drammatica e fare queste poche cose, una legge per il lavoro, per le imprese, per i giovani, una legge che rassicuri in Europa e viva Dio la riforma. Insomma, lei spera che ancora su questo Bersani rinsavisca in queste 24 ore? E dica... No, non rinsavisce più, ahimè, perché allora... difatti oggi l'unico giornale ottimista è il l'Unità, il che testimonia, testimonia la drammaticità della situazione, cioè sperare che Bersani rinsavisca No, se è l'unico che titola, si vedono dei passi avanti, però effettivamente passi avanti se ne vedono un po' pochi, ma bisogna essere ottimisti, chissà se troverà una situazione per risolvere la questione. Tra 5 minuti rientriamo con l'onorevole Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, l'onorevole Silvia Vero del Partito Democratico, non scamperò e non scamperà onorevole Velo anche da Battiato, da un commento, e anche Galan, perché insomma è anche un po' il tema del giorno, no? Quello che ha detto Franco Battiato. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:35, 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete intervenire per dirci cosa ne pensate, ce la farà o no Bersani, mancano 24 ore, eccetera. E con noi ci sono appunto l'onorevole Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, l'onorevole Silvia Velo del Partito Democratico. Ci ha raggiunto perché vogliamo capire da lui qualcosa anche su questo modello Sicilia di cui si parla molto, Matteo Mangiacavallo, che io dico consigliere regionale della Sicilia, so che però lei preferisce cittadino. Mangiacavallo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Cittadino, deputato regionale, insomma, del Movimento 5 Stelle alla Regione Sicilia. Tra un attimo arrivo da lei, Mangiacavallo. Però Silvia Velo, intanto glielo devo chiedere di Battiato, perché tra l'altro oggi fa un'intervista a Repubblica a dire ma come, sono tutti matti, mi attaccano. Ma io ce l'avevo con il Parlamento passato, intanto. Quindi lei e tutte le colleghe stia tranquilla, insomma, perché ce la pezza è peggio del buco. E perché dice la pezza è peggio del buco? Perché francamente è inaccettabile un'offesa di questo tipo a chiunque si riferisca. Io ho scritto questo su un mio tweet: Battiato, che delusione, a chiunque tu ti riferissi. Questo perché sì, certo, è un termine offensivo, sessista, misogino, e perché anche se ci fosse stato mercimonio nel precedente Parlamento, in quelli prima ancora, nei consigli regionali, un mercimonio eventualmente riguarda uomini e donne. Lui oggi ognuno con i suoi, certo, strumenti. E questa è un'osservazione assolutamente fondata. Oggi lui nell'intervista a Repubblica dice: io non mi riferivo alle donne, ma mi riferivo a uomini e donne, cioè al fatto che la politica è stata svenduta con casi che sono finiti sulla stampa. Non li ha voluti citare perché dice non ho neanche il coraggio di nominarle. Ma insomma, si riferiva alla svendita in qualche modo della politica in nome, e quindi ha usato questo termine. Però effettivamente riferito alle donne è certo. Io poi se mi permette spezzo anche una lancia nei confronti di chi magari fa un duro mestiere non invidiabile, quindi insomma usarle come prototipo di tutti i mali del mondo Cioè spezzano l'ancia per le prostitute, dico io. Certo, perché in qualche caso sono molto più dignitose di tanti politici, questo sì. Ah, questo è... onorevole Galan, vuole anche lei lanciarsi? Qualcosa anch'io, perché una cosa è certa, che quelle signore che siano più dignitose di Battiato, questo è fuori discussione. Dopo vediamo, i politici sono come quelli che li eleggono, ci sono quelli bravi, quelli non bravi, quelli che si dedicano, ma quello che ha detto Battiato è qualcosa di abominevole. Però mi scusi Galan, di recente Vittorio Feltri di recente alla Zanzara ha detto: ah, vedo che nel PDL Berlusconi ha candidato ancora delle mignotte, uso parole sue. Quindi c'è una bella differenza, ma pensiamo per un attimo, c'è una bella differenza in che senso? Mi scusi, tra mignotte e troie adesso non è che voglio disquisire, ma Un conto è dire c'è qualche mignotta, un conto è dire un Parlamento di troie, e io finirei con questo linguaggio degno di Battiato, che sarebbe meglio, io vi prego, voi del PD che governate, ahimè, la Sicilia, ditegli che dovrebbe avere la stessa dignità che ha avuto Terzi, che senza responsabilità dirette, ma pagando una colpa di un governo che sta scivolando sempre più in basso, ha avuto il coraggio raro in Italia di tornare a fare il suo lavoro. Ecco, Battiato, scriva canzoni, le canti anche se cantando va un po' meno bene che a scriverle, ma per favore non si occupi di politica. Non si occupi di politica. Andiamo un attimo in Sicilia. Matteo Mangiacavallo, glielo devo chiedere anche a lei, perché insomma è un assessore del governo Crocetta, un assessore. Lei lo trova, intanto, come lo giudica questa uscita, e ne chiedono molti le dimissioni di Battiato? Ma io non prenderei per buono il personaggio Battiato, perché comunque in ogni caso sta nelle corde di un artista essere un po' colorito nel linguaggio, nelle espressioni, e comunque è qualcosa che bene o male siamo abituati a sentire, non che sia la logica che sia il giusto. Certo, nel contesto, cioè, si riferiva un po' allo scilipotismo, al mercato delle vacche, di quello che sentiamo parlare, insomma, di parlamentari non proprio di morale ineccepibile. Sì, magari poteva moderare un po' il termine, però... Dice, c'ha ragione in fondo. In fondo c'ha un po' di ragione, ecco, quello sì. Quello sì. Quindi non dovrebbe dimettersi, secondo lei? Probabilmente quello che ha fatto oggi, che è un mea culpa pubblico, dicendo un po', spiegando quello che era il significato delle sue parole, se effettivamente era quello, insomma, poi va rivisto un po' quel contesto in cui è stato. Sì, in questa intervista su Repubblica dice: io ce l'ho non con le donne, ma con i politici corrotti, con la corruzione della politica, con chi ha svenduto un po' con inchieste giudiziarie, che è finito sui giornali, soggetti che insomma prendevano soldi per fare leggi pazzesche, bloccare il paese, l'ha motivata così, ecco. Sì, ritorniamo praticamente a quello che è il suo linguaggio anche dal punto di vista artistico. Ricordiamo che lui ha scritto Povera Patria, insomma. Tante canzoni, sì, però questo non lo legittima di effettivamente il termine è forte. Senta, il metodo Sicilia ce lo vuole spiegare? Perché tutti guardano al metodo Sicilia, cioè un presidente Crocetta che si misura giorno per giorno, quotidianamente, con le proposte, e voi valutate le proposte, seppur non fate parte, diciamo, della maggioranza in maniera concreta, perché tutti guardano al modello Sicilia come qualcosa di riproponibile anche a livello nazionale. Che cos'è sto metodo Sicilia? Qualcosa di così normale, naturale, quello che praticamente la politica dovrebbe essere in generale, cioè non guardare gli appositi schieramenti, cioè maggioranza e opposizione, non guardarli in questa maniera, ma guardare all'interno delle minoranze, maggioranze propositive che collaborano e si confrontano quotidianamente. Noi abbiamo avuto questa occasione unica, direi, perché comunque il governo Crocetta non aveva la maggioranza all'interno del Parlamento siciliano, e quindi si è dovuto comunque confrontare con quelle che erano le realtà che erano presenti in Parlamento. Spero che possa fare la stessa cosa anche con le forze che riguardano anche l'opposizione attualmente presente all'interno del Parlamento siciliano. Quello che facciamo noi è quello di avanzare le nostre proposte, considerare le proposte degli altri, valutare, cercare un punto di mediazione. Sì. La politica classica. Però mi scusi, Mangiacavallo, il problema a livello nazionale è diverso, perché ci vuole la fiducia. Cioè la fiducia è l'accensione della macchina. E se voi del Movimento 5 Stelle, come oggi immagino Beppe Grillo ribadirà, la fiducia noi non la daremo mai. Qui è una questione che se non c'è il primo, il là, non si intona il là, non si parte. C'erano diverse alternative, perché in ogni caso noi abbiamo sempre detto, ma sta nel nostro regolamento, che noi non facciamo alleanze politiche con nessuno, e comunque dare la fiducia a un governo di tipo politico, qualsiasi governo che esso sia, che ha una rappresentanza di tipo politico, è comunque fare un'alleanza politica nella sostanza. E voi per giammai. Allora, ci sono delle alternative, visto che comunque ci sono. Due sono le situazioni: o che l'attuale coalizione è quella che ha vinto le elezioni e quindi vada a governare e cerchi comunque le forze che possano sostenere quella che è la propria forza in Parlamento, oppure che si dia ascolto a quelle che sono le altre maggioranze o minoranze che sono presenti in Parlamento. Il PDL, lei diciamo, dice facciano un governo tra di loro. Non è detto, cioè noi abbiamo fatto anche delle controproposte, abbiamo detto dateci la possibilità di scegliere noi un Presidente del Consiglio che sia garante anche di un programma che noi vogliamo portare avanti insieme a loro. Cioè noi abbiamo 20 punti del programma che non sono inseriti neanche negli 8 punti di Bersani. Cioè da quel punto di vista il suo programma è acqua rispetto a quello che noi portiamo avanti. Noi partiamo da un principio, anche un piccolo passo indietro, cioè rifiutare i rimborsi elettorali. Sarebbe praticamente già un passo avanti rispetto a quello che è la nostra posizione. Ma non c'è neanche un accenno rispetto a questo. Quindi non vede nessuna premessa. Facciamo la legge, ma scusate, avete preso 50 milioni, là sono là fermi, anziché prenderveli ridateli, tornateli indietro, fate questo passo. Ma interessante, ha capito onorevole Silvia Velo, cioè Matteo Mangiacavallo, che appunto è del Movimento 5 Stelle in Sicilia, siede in consiglio nell'assemblea regionale siciliana, è il portavoce del Movimento in Sicilia, dice oh, ma qua è tutta acqua quella che ci vendete, e volete e pretendete anche che il Movimento 5 Stelle vi appoggi in qualche modo, onorevole Velo? Intanto noi non pretendiamo, pare che Bersani ha un linguaggio che non parla mai di pretesa. Bersani ha proposto 8 punti e sta chiedendo alle forze politiche, sta facendo una proposta alle forze politiche, che è quella di consentire la partenza della macchina. Che nel modo in cui ogni forza riesce a consentire questa partenza della macchina. 5 Stelle a modo suo. Perché c'è tanti modi, l'uscita dall'aula, dichiarata naturalmente, consentire la partenza della macchina per consentire l'avvio di quel percorso a cui stanno collaborando in Sicilia. Insomma, queste metodi... Altrimenti il Movimento 5 Stelle decide di non incidere, di non portare quei cambiamenti per cui invece gli elettori l'hanno... Eccola qui, l'idea di dire è colpa loro, no? La responsabilità. No, assolutamente. Beh, decidono di assumersi questa responsabilità, lei dice. Fanno una scelta politica, consapevole e dichiarata, naturalmente. Detto questo, aggiungo una chiosa a quello che è stato detto prima. Rinunciate ai rimborsi elettorali. Noi abbiamo detto, e Dani l'ha detto, disponibile a rinunciare ai rimborsi elettorali se si fa una legge sui partiti che stabilisca che i finanziamenti borse elettorali arrivino solo ai partiti che sono in linea all'articolo 49 della Costituzione, uno statuto, organismi riconosciuti, democrazia interna, trasparenza nei bilanci e così via. Questa è la proposta che ha fatto Bersani, accogliendo la richiesta. Disponibile a cancellarli, cancellarli del tutto, io non l'ho sentito. Però si fermi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, poi riparto all'onorevole Galan, qualche ascoltatore, nell'ultima parte di 24 Mattino. Eccoci qua, le 8:48 minuti. Allora, Galan, lei continuerà a definirli bizantinismi, tentativi di strappare di qui dei voti di là da parte. Però cosa dovrebbe fare Bersani allora? Se, dal suo punto di vista, vabbè, è facile, dovrebbe dire ciao, grazie, arrivederci, ho perso, me ne vado? dovrebbe prendere semplicemente atto di un risultato elettorale che non gli dà la maggioranza nel modo più assoluto al Senato e che gli ha permesso di avere 160 deputati in più in base a una legge da cambiare solo per lo 0,3% di voti in più e dire governiamo assieme. Ognuno si prende le sue responsabilità, le sue funzioni, il capo dello Stato è un'occasione per dare un segnale, l'elezione del capo dello Stato. Ma se vogliono l'ineleggibilità di Berlusconi, ecco, appunto, come si fa a governare insieme? Se vogliono, se dicono che è ineleggibile, se qualcuno vorrebbe arrestarlo, dovesse arrivare mai la richiesta d'arresto, cioè com'è possibile? Ma difatti questo è il dramma, è una forza come quella del Partito Democratico, invece di prendere atto delle difficoltà e dei drammi del paese, delle aziende che chiudono, della gente senza lavoro, dei giovani che non sanno dove andare, ecco, per loro la cosa più importante non è dare un governo, fare 2-3 leggi importanti, no, è dichiarare l'ineleggibilità di Berlusconi. Questa sinistra è incapace, indegna di governare. Per tornare tra un attimo, torno da Mangiacavallo, però, quindi Sicilia, perché mi interessa per esempio la questione delle province. Lì un provvedimento l'hanno fatto, hanno detto cancellare le province, però voglio capire tra un attimo se è davvero così. Due ascoltatori, Maurizio da Varese, buongiorno. Buongiorno, allora, volevo dire che praticamente volevo salutare Velo e Galan, io sono di un partito minore ma non posso dirlo, volevo dire questo. Perché allora, cioè non può dirlo? Di che partito è? È un partito nuovo che è nato qui nella Varesotto che si chiama Vento di Libertà. No? Vabbè, non si vergogni, non lo conosco allora, comunque, Maurizio dice. Vabbè, più avanti si conoscerà. Comunque voglio dire questo, col governo Monti è stato un fallimento, no? Vediamo oggi l'Unione Europea. Io dico a Bersani, al PD e alla Lega e al PDL, no? Mettetevi assieme e dimostrate al popolo italiano che veramente volete fare qualcosa senza guardare poi cioè, tutti questi scherzi interni destra e sinistra. Qui è arrivato il momento di dimostrare al popolo, no? Che si vuole fare veramente qualcosa per l'Italia. Vabbè, lei fa un invito a mettersi insieme, Maurizio, chissà se Bersani ascolterà. Perché Grillo, cioè quelli che sono con Grillo sono tutti disperati, che poi vedranno che alla fine... Vabbè, non vi ha ricevuto Bersani per le consultazioni, Vento di Libertà, no? No. No, riceveva un po' tutti. Vabbè, la prossima, grazie Maurizio, andrei a Perugia da Stefano. Buongiorno Milan, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Una piccola puntualizzazione sul caso Battiato. Quello che mi urta come cittadino non è tanto il contenuto delle sue dichiarazioni, ma il contesto in cui le ha rilasciate. Vorrei che smettesse e finisse questo vizio italico di gettare fango sul nostro paese dall'estero. Non abbiamo memoria storica, quello che è accaduto negli ultimi anni ha fatto male al nostro paese. Ah, lei dice il fatto che fosse a Bruxelles come assessore, quindi a parlare come istituzione, le ha dato fastidio questo. I panni sporchi è una lezione che ancora non riusciamo ad imparare, si lavano in casa, è ora di finirla. È un malcostume tutto italiano. Io non ho mai sentito un tedesco, un francese, uno spagnolo parlare male da noi, del proprio paese, delle proprie istituzioni. Va bene, le ha dato fastidio, ma è interessante questo punto di vista. Grazie Stefano. Allora, Matteo Mangiacavallo, in Sicilia avete abolito le province, ma intanto è un'abolizione reale o virtuale? Perché abolite le province e le sostituite con i consorzi dei comuni, liberi comuni, com'è la dicitura? Ma non è, mi scusi, una supercazzola, io uso spesso questo termine. No. In Sicilia abbiamo un'autonomia, abbiamo praticamente uno statuto speciale che praticamente all'articolo 15 recita che noi abbiamo come organi di governo abbiamo soltanto le regioni e i comuni e i liberi consorzi dei comuni. Quindi praticamente in statuto non sono previste le province. Infatti in Sicilia sono state istituite con legge regionale nell'86, la legge 9 del 1986. Quindi che istituiva, cioè configurava quei consorzi dei comuni come province regionali e li equiparava a quelle che erano le province nazionali. A questo punto noi siamo tornati indietro allo statuto, cioè niente di più. Ma questo porterà un risparmio? Perché certo non verranno fatte le elezioni di rinnovo delle province, questo è un risparmio abbastanza chiaro da capire, perché la macchina elettorale non si mette in moto, ma al di là di questo? Allo stato attuale dobbiamo considerare che quella che abbiamo approvato è una norma transitoria, nel senso che per snellire le operazioni e per arrivare praticamente all'annullamento del voto di maggio, di aprile, di maggio, abbiamo praticamente intanto bloccato le elezioni e cominciato a un percorso che ci porterà alla riorganizzazione di quelli che erano i contesti territoriali provinciali. Adesso, secondo la nostra proposta, perché noi abbiamo avanzato la nostra proposta di gestione dei nuovi consorsi di comuni, non saranno previsti più organi politici, quindi viene a mancare il presidente della provincia, vengono a mancare gli assessori e i consiglieri provinciali. Però piccola cosa questa, cioè c'è un risparmio minimo. Sì, ma non è soltanto questo, ma poi le competenze vengono trasferite alle regioni e ai comuni, quindi allora si parli di strade, anziché parlare di strade di competenza provinciale, si passa a strade di competenza regionale, o le scuole passano praticamente in mano ai comuni, tanto per fare degli esempi. Gli uffici provinciali diventano uffici regionali territoriali, quindi si spostano le competenze, e una volta svuotate le province delle loro competenze, a quel punto si può anche pensare che i comuni possano consorziarsi secondo i propri distretti e fare i consorsi ai liberi comuni. Sì, comunque, ma a quel punto non ci sono più organi che non ci sono organi politici, diciamo, politici, che è un po' la vostra, non un po' la vostra non c'è battaglia. Più il costo, non c'è più il Senta, costo dica la verità, Mangiacavallo, lei confida un po' che si mettano insieme PD e PDL, come dice Beppe Grillo, per stare un po' come ad aspettare i cadaveri sulla riva del fiume, così al prossimo giro, no, vi divertirete ancora di più? Ma no, qua c'è poco da divertirsi, perché alla fine poi sì, la situazione dell'Italia è quella che è, cioè l'ingovernabilità non fa bene a nessuno. Il problema è questi hanno governato per 20 anni, sia PD che PDL, si sono alternati al 50% ciascuno negli ultimi 20 anni, e il risultato è quello che vediamo sotto gli occhi di tutti. Se noi partiamo come movimento di rottura, non possiamo fare alleanze con chi praticamente ci ha portato a questo livello, a meno che non sia disposto a scendere, a parlare con noi e dire ok, siamo disposti a cambiare completamente atteggiamento. Ma quello che ha detto l'onorevole Velo, per esempio, di dire sì, togliamo il finanziamento ai partiti, ma ristrutturiamo i partiti tutti secondo la Costituzione, può essere un'apertura? O è anche questa acqua fresca? Allora, sono 20 anni che sentiamo parlare di... poi vediamo, legge sul conflitto di interesse che manca, legge sull'anticorruzione... Cioè, mancano diversi punti fondamentali. L'acqua pubblica, che praticamente è stato calpestato il referendum più volte. Alla fine, cioè, non possiamo stare... dobbiamo avere le garanzie che quel programma venga... Cioè, lei vede tante chiacchiere, vede tante chiacchiere. Sì, ma è chiaro. Cioè, alla fine poi il discorso sarà chiaro. Alla fine un governo lo troveranno, perché loro hanno bisogno delle poltrone. Quindi quanto prima faranno un'alleanza PD-PDL, si andrà avanti per quanto potranno tirare. Noi a quel punto, una volta che il governo sarà partito, saremo veramente all'interno del Parlamento a discutere, a confrontarci con quelle che sono le forze politiche, e laddove il PDL o il PD non saranno disposti a portare avanti delle iniziative, lì troveranno l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Se sono iniziative che piacciono. Sì, vabbè, sì, comunque sì. Lei dice ci sarà, alla fine troveranno un modo. Per le poltrone lo faranno. Lo vedrete. Che lo faranno. Va bene, intanto io mi fermo qui e vi ringrazio. Silvia Velo del PD, Giancarlo Galan del Popolo della Libertà e Matteo Mangiacavallo, che è cittadino, deputato del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Potete riascoltare tutto su radio24.it, potete seguirci su Alino Milan, questo è il mio profilo Twitter, oppure 24 Mattino è il profilo Twitter della trasmissione. Da tutti l'appuntamento rinnovato a domani alle 6:30.